Capitano, chiediamo perdono per l'intrusione. Siamo in missione per il governatore. Il nucleo del regno è stato attaccato e dobbiamo recuperare la chiave dell'acqua per salvarlo.